In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. 4 novembre 2011, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, inizia anche per oggi Slalom, una trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Giornata ricca di ospiti per l'Angiolino alle 10, Giulio Giannobardo intorno alle 10.30, la professoressa Sorci che parlerà di relazione personale, poi il nostro caro amico chef Alessandro Orefice. Giorno 4, auguri a tutti coloro che oggi compiono qualcosa, auguri soprattutto a coloro che oggi si chiamano Carlo, essendo che la Chiesa Cattolica ricorda San Carlo Borromeo. Ricordiamo anche dei nativi importanti in questa giornata, come nel 1993, quindi il 4 novembre 1923, nasceva Alfred Heineken, famoso fondatore della birra Heineken. Poi Sandro Ciotti ed Matthew McConaughey, attore di Amistad. Una cosa importante, i nostri numeri telefonici che sono 0921 92 32 92, 335 56 37 251, poi avete a disposizione anche il sito internet per quanto riguarda le vostre dediche, le vostre richieste, che sono www.crmepiradio.it, all'interno del quale troverete anche la nostra icona della pagina Facebook, dove da lì potete direttamente interagire con noi. Cosa dire? Partiamo subito con la musica? Sì, dai, facciamolo, partiamo subito con la musica. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Non piangerò mai sul denaro che spendo e ne riavrò. Certo di più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho, e forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio. Sarà di me, se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo 100 anni, se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol di più, molto di più. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu, che sarà di me. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei. Ciao Daniela che va via, Daniela Zaga che vi ha tenuto compagnia fino a 10 minuti fa circa. Allora, ricordiamo che il 4 novembre del 1879 nello stato americano dell'Ohio viene brevettato il registratore di cassa. Nel 1918 in tutta Italia si festeggia la fine, fortunatamente, della prima guerra mondiale, che viene decisa per questa data la celebrazione della vittoria delle forze armate. Musica italiana, lo facciamo con Vasco Rossi, salutiamo Chiara che ce l'ha richiesto. Invece, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante. E dici non credo di essere così importante. Una bugia, infatti scappi via. Troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché. Nel 4 novembre del 1992 in Egitto veniva scoperta l'ingresso della tomba del faraone Tutankhamon. Nel 61 iniziano le trasmissioni del secondo programma televisivo della RAI. Continuiamo ancora con la musica, adesso lo facciamo con Le Vibrazioni, anche questa è una richiesta. Salutiamo Paolo che ce l'ha richiesto. Respiro. Passerà, anche oggi passerà. Come fosse una lacrima che scivola. E dove andrà? Forse tra i segni di un sorriso che amaro è, ma passerà. Questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro e il suo odore. Passerà, è come aria, passerà quest'aria che in un fiato singhiotteggia tra le scorie di un inevitabile passato che tenta sempre di confondere. Questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro e il suo odore. questo inverno cosa porterà? Un'altra primavera fragile che non sa come fiorire ancora nell'arco di un respiro e il suo odore. Lactimon geniale e divino, l'arte della sua luminescenza. Bello questo colpo di tosse in diretta, scusateci, ma scusatemi, anzi. Allora, arriva a Roma il treno del Milite Ignoto, che era partito il 29 ottobre da Aquileia. Dopo aver attraversato mezza Italia, il treno del Milite, quindi Ignoto, è giunto questa mattina a Roma. La tomba del Milite Ignoto è una tomba che contiene i resti di un militare morto in guerra, il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. È una tomba simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un particolare conflitto e che non sono mai stati identificati. La pratica di avere una tomba del Milite Ignoto si è diffusa soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, una guerra in cui il numero di corpi non identificati fu enorme. Tombe di questo tipo sono in genere scenario di cerimonie ufficiali, in cui nell'anniversario della fine di una guerra si commemorano tutti i morti di quella guerra. Venne quindi deciso di creare la tomba del Milite Ignoto, nel complesso monumentale del Vittoriano in Piazza Venezia a Roma, sotto la statua della Dea a Roma. Sarebbe stata tumulata la salma di un soldato italiano sconosciuto, selezionata tra quelle dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Questo è un piccolo grande ricordo a tutti i giovani che sono partiti per la guerra e che non hanno fatto più rientro, da CRM e da Slalom. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Continuiamo ancora con la musica dopo questa parentesi, per ricordare comunque questi giovani che partono per la guerra e ahimè non ritorno, ma anche un ricordo a tutti coloro che sono partiti e che hanno servito la nostra patria. Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere, sono un granché. Ho un buco nelle tasche dei pantaloni, forse avrò perso qualcosa di me. Al bar tante chiacchiere malinconie, mentre qualcuno urla quattro caffè. Ma guai a sgualcirmi bandiere e passioni, meglio parlare di donne e TV. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano, anche adesso, adesso che sono lontano, ma in questo frastuono è rimasta un'idea, un eco nel vento, fa che ti esci rea. La palla carezza i fili d'erba come un pianeta ben educato. Buca la nebbia di un paese lombardo, provincia di un mondo dimenticato. C'è chi attraversa la vita come una cometa e ci fa illudere che ci sia una meta. Ma forse sono io che oggi sono strano, avrei bisogno di qualcuno che mi prendesse per la mano. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano. Anche adesso, adesso che sono lontano, ma in questo frastuono è rimasta un'idea. Un eco nel vento fa che ti escirea. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano niente, con un solo passaggio uniscono milioni di gente, ma in questo frastuono è rimasta un'idea. Un eco nel vento fa che ti escirea. Gaetano Scirea e Giacinto Facchetti sono i due personaggi che vengono menzionati durante la canzone degli Stadio e comunque danno il titolo a questa ultima fatica. Noi adesso consigli commerciali, poi partiremo con una canzone datata interpretata dai Simple Minds, ma originariamente è stato pubblicata e messa in circolazione da Prince, quindi Sing of the Times. Questo è un motivo in più per non cambiare radio. Consigli commerciali ci Slalom Flashback. Yeah. Skitsta was glad. Neighbors just shining on. But if a night falls and a bone falls, will anybody see the dawn? I said, sign of the time, and it's what you're mad. Hurry before it's too late. Let's fall in love. Get married if you're in the corner, maybe it's a bone. Molto suggestiva questa interpretazione dei Simple Minds, che è una vecchia canzone fatta da Prince e proprio intitolata Time of the Single of the Times. Noi continuiamo, non prima di darvi dei consigli commerciali, poi rientreremo in studio, quindi l'occasione è sempre importante per riascoltare un vecchio disco. Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria Dalla Vincenzo, Corso Ruggero 34. Slalom. Flashback. You're trying now. Jerry Rafferty che ci ha fatto riascoltare questa bella canzone, Back on Street. Sono le 10.09 minuti primi, questa è CRM Happy Radio, la vostra radio. Siamo in diretta telefonica con il nostro caro amico che ci ha raggiunto telefonicamente, il nostro buon padre Angiolino di Lizia, che parlerà della liturgia della parola di domenica. Buongiorno padre. Buona giornata a tutti voi. Ok, come mi senti innanzitutto? Perché ti sei lamentato nei giorni scorsi che il ritorno in cuffia... Adesso ti sento bene. Perfetto, questa è una cosa importante. Allora, io ho letto ieri sera, ho avuto modo di leggere la lettura del Vangelo di domenica prossima, però io credo che sia importante che faccia tu un piccolo approfondimento per quanto riguarda la parola, quindi a te. Allora, innanzitutto il brano del Vangelo, siamo alla fine dell'anno liturgico e ci proietta verso quella realtà che ci accoglie tutti, che è la vita eterna, che è il regno dei cieli. In pratica si parla delle 10 vergini, sì. Però subito si precisa nel Vangelo che 5 erano stolte e 5 erano sagge. Sì. E poi termina anche questo brano del Vangelo con espressioni abbastanza dure quando dice a quelle che sono rimaste fuori, ecco. Non vi conosco, non so chi siete, non so da dove venite. Uh-huh. È un'esperienza abbastanza dura ma anche consolante. Innanzitutto qui si parla, è una parabola, sono 10, perché vuol dire che nessuno sta da una parte o dall'altra, siamo tutti persone che possono avere la lampada accesa o la lampada spenta. Mm-hmm. Però il problema qual è? È il problema che Gesù parla della lampada, che vuol dire che c'è una notte attorno a noi. Allora tante volte quella luce piccola che abbiamo ci serve soltanto per guardare davanti a noi, non abbiamo una prospettiva, una notte buia, una candela, una lampada non fa molta luce. E allora il rischio qual è? Che tante volte rischiamo di perderci in questa notte della vita che attraversiamo, magari la fede viene meno, tanti dubbi che ci assalgono, cioè in pratica la presenza di questa luce quasi quasi si perde nella notte. Però Gesù non guarda tanto a quell'espressione dell'ultimo momento, dice che tutta la nostra vita deve essere una presenza luminosa, oppure non è nulla. Non ci rimprovera se noi all'ultimo momento non abbiamo poca luce, ma ci rimprovera se la nostra vita è una vita vuota, che non si è accesa, che non si è illuminata. E poi c'è anche l'altro aspetto, che le 5 ragazze che erano sagge si identificano con la loro lampada. Ciascuno è una persona lampada, una persona luce, luminosa, illuminante, e che desidera incontrare gli altri. Nel buio non si incontra nessuno, però con la luce si può incontrare il volto di una persona. E poi c'è un altro aspetto anche interessante da tenere presente, che nella vita ciascuno di noi ci sono delle azioni, delle cose che non possono essere in alcun modo delegate. Non è che le 5 sagge dateci del vostro olio, cioè ognuno deve pensare per sé, deve essere responsabile della propria vita. Cioè gli altri ci possono aiutare, ma non possono mai sostituirsi a noi in quello che personalmente e in modo responsabile siamo chiamati a dire e realizzare, i genitori con i figli, gli insegnanti a scuola, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia. Ognuno deve portare avanti la propria responsabilità, nessuno può prendere il nostro posto. Ho capito. E poi termino dicendo che questa è una parabola molto dura. Uh-huh. Dura perché la risposta delle ragazze alle loro compagne dice: andate a comprarvelo l'olio. Uh-huh. Quindi un gesto molto secco, duro. Ma non potrebbe, scusi se la interrompo, non potrebbe essere frainteso, interpretato male questo messaggio? In che senso? Cioè nel senso che ci sia un po' di egoismo da parte di queste donne che dicono no. È quello che dicevo prima, sì. Franco, cioè nel senso che ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni, deve essere attento alla propria vita, nessuno può sostituirci in questo senso, è una presa di coscienza della responsabilità. Mm-hmm. E poi sono anche durissime le parole da dietro la porta dello sposo e del Signore che dice: non vi conosco. Okay. Proprio lui che diceva bussate e vi sarà aperto, immagina, bussate e vi sarà aperto, adesso dice

Ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. In questo periodo sicuramente non è un periodo fortunato per tutti i politici, dove appaiono, vengono contestati in maniera proprio brutale. È quello che è successo al ministro della difesa, il nostro La Russa. Ora ne parliamo, prima sentiamoci Noel Gallagher. I seem to spend my whole life running from people who will be the death that it would be. Un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Ma la cosa strana è che il ministro Ignazio La Russa ha attribuito questa contestazione a Claudio Amendola, sottolineando che cosa? Che lui abbia un po' istigato questi contestatori. Ma la cosa che mi fa ridere, credo che faccia ridere anche a voi, che La Russa ha detto dovremmo informare questi contestatori sollecitati da Amendola se sanno quanto guadagna nelle televisioni di Mediaset proprio con i soldi di Berlusconi. Ma la cosa che mi fa ridere leggendo queste notizie di gossip è soprattutto questo battibeccarsi a distanza. Anche Renato Brunetta è stato contestato il conduttore di Striscia la Notizia, che ha praticamente sottolineato i costi della politica sia per quanto riguarda La Russa, sia per quanto riguarda Brunetta, sia per quanto riguarda Bruno Vespa, insomma, tutti vengono contestati. Noi adesso vi diamo dei consigli commerciali, poi rientreremo in studio e avremo ospite, come già ben sapete, il nostro buon Giulio Giallombardo, che ci parlerà dei fine settimana. Come già anticipatovi prima, abbiamo in diretta il nostro buon e bravo Giulio Giallombardo. Ciao Giulio! Ciao Francesco, grazie per il bravo. Bravo perché ci dai dei giusti consigli per affrontare il fine settimana innanzitutto. Esatto. E poi perché io credo che alle spalle di questi 5 minuti che tu ci dedichi c'è un lavoro comunque di una settimana, cercare le cose importanti, vedere anche delle cose che sono in linea anche con quello che possiamo proporre ai nostri radioascoltatori, dico bene? Sì, esatto, è proprio così. Infatti noi della redazione di Sicilia Weekend lavoriamo appunto ogni settimana selezioniamo le tante offerte che arrivano dai vari comuni, dalle varie località siciliane per proporvi, diciamo, appuntamenti stuzzicanti e diversi per il fine settimana, appunto. Quindi non è un semplice, dice vabbè, ma tanto 5 minuti cosa costa? Niente. Assolutamente. Niente. C'è un lavoro comunque, c'è un lavoro di equipe, un lavoro alle spalle, un lavoro che poi, come ci eravamo detti poc'anzi, si era parlato di un altro percorso, poi dice no, è stato annullato, quindi sai, magari uno dà una notizia e poi non è per colpa nostra che magari vengono annullate le cose. Ecco. Assolutamente, sì, soprattutto anche a causa del maltempo degli ultimi giorni che ha interessato soprattutto il versante orientale siciliano, quindi la provincia di Catania. Purtroppo molti appuntamenti che erano previsti all'aperto sono stati annullati. Ho capito. Comunque, allora Giulia, cosa ci proponi per questa settimana? Che consigli ci dai per questo fine settimana? Questa settimana vogliamo parlarvi di marionette e teatro di figura, perché questa sera proprio il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo si inaugura la 36esima edizione del Festival di Morgana. E questa sera prenderà via proprio la mostra dedicata al grande scenografo Emanuele Luzzatti, mentre domani sera al Teatro Dante, sempre a Palermo, andrà in scena Il Trovatore nell'adattamento della compagnia marionettistica Carlo Colle e figli, quindi una storica compagnia italiana per questo adattamento del Trovatore di Verdi. Ho capito. Passiamo invece al cibo e, come sanno i nostri lettori, noi di Sicilia Weekend amiamo dedicare alcune delle nostre pagine anche ai frutti e ai prodotti di stagione. E in questo numero vi parliamo proprio dei cachi, delle proprietà nutritive di questo frutto che viene dall'Oriente. L'albero delle virtù. Esattamente. Ottimo per le sue proprietà lassative e soprattutto depurative per il fegato, e fa bene anche alla vivacità del nostro intelletto, del nostro cervello. Troverete tanti begli alberi da frutto, di questo frutto molto molto dolce, buono, bello anche da vedere, a Misilmeri, che è un piccolo centro del Palermitano, per le porte di Palermo. Noto proprio appunto per la coltivazione di questi bellissimi alberi da frutto. Beh. Chiudiamo con natura, in qualche modo restiamo in tema di natura intendo, perché la cooperativa Artemisia vi propone questa settimana una bella escursione sui versanti meridionali dei Monti Sicani, che offrono spunti di grande interesse naturalistico ed anche geologico. Nello specifico l'escursione che è prevista domenica prossima vi porterà a Pizzo Mondello, 1248 metri, dove sono presenti dei fossili molto molto belli, e farete anche un salto al bosco di Rifesi, all'interno del quale si trovano degli alberi che sono stati inclusi nell'albo delle piante monumentali, degli alberi monumentali della regione siciliana. Bene, quindi insomma, anche l'opportunità per avere un contatto proprio abbastanza intenso con la natura, respirare anche dell'aria pura, ma soprattutto perché noi facciamo questo? Perché vogliamo che noi siciliani scopriamo ancora di più la nostra Sicilia. Eh sì, è proprio questo il nostro scopo, e soprattutto sempre con un occhio attento alla natura, alle escursioni che in quest'ultimo periodo devo dire che il turismo naturalistico sta avendo un buon riscontro da parte dei siciliani, come se i siciliani insomma si riappropriassero della natura, della loro terra, insomma. Buono, dai, questa è una cosa importante. Io da tanto tempo dico che prima di andare fuori dai nostri confini regionali dobbiamo conoscere bene la nostra bella terra. Sono assolutamente d'accordo con te. Giulio, il nostro appuntamento è sempre per venerdì prossimo. Sì. Spero che ci riserverai, come hai fatto in questi appuntamenti precedenti, tante belle novità e soprattutto tanti bei fine settimana. Non mancheremo di accontentarvi. Ok, io ti auguro una buona vita e un buon lavoro per tutti. Grazie, buona giornata a te, buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao Giulio, ciao. Ciao. Slalom. Flashback. Child, sighs after 70 years. That's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yeah. People walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. We are a little crazy. No, no, never survive.

parti da qui, dalla mia stanza, e vola, sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura, e vai. Corrode, che ti consuma, e vola, io lo so che lo sai fare, e niente ci potrà fermare più. Brucerò per te dai Negrita, richiesto da Alessia, e abbiamo salutato anche la bella e dolce Maria Cristina. Ieri sera, guardando un po' la TV, mi è venuta la pelle d'oca sentendo Romina Power, che a distanza veramente di tanti anni è ancora alla ricerca della sua povera Ilenia Carrisi, che non si dà per vinta, cioè nel senso che praticamente il cuore di mamma è sempre abbastanza profondo. Consigli commerciali, poi rientreremo in studio con una bella canzone. With or without you, with or without you. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Rock Revolution, con i nostri Rock Brothers, i bravi Simone e Filippo Brancato, che salutiamo affettuosamente. Come già detto prima, adesso parleremo di qualcosa di importante, della poesia. Attraverso il linguaggio poetico si impara a poco a conoscerci, a conoscersi così è fatti, come si è fatti dentro. E questo serve per acquistare sicurezza, fiducia in se stessi e per costruire la propria identità. Ciao Michele, come stai? Ciao Francesco, che piacere sentirti. Mi hai viziato. Sì, perché adesso quando, visto che abbiamo un po' attraversato questi giorni di festa particolari, diciamo, con la tua assenza mi è un po', l'ho avvertita. Oh là là. Spero che anche i tuoi ascoltatori l'abbiano. No, sentita. Allora, io ti devo dire una cosa. Questa mattina è una mattinata abbastanza vivace, ho ricevuto tanti messaggi, tanta gente che ha scritto tramite Facebook. Sembra che questa forma di trasmissione con questi interventi esterni stia cominciando a funzionare bene, cioè nel senso che comunque noi siamo una radio piccolina, locale, siamo una radio a portata di mano per tutti e così via, e stiamo facendo una cosa che vuole essere un po' un attimino diversa da tutto il resto, cioè nel senso vi diamo dei consigli per il fine settimana, vi diamo i consigli anche spirituali, perché comunque è anche giusto purificarci interiormente, vi diamo anche comunque i consigli per ingrassare la propria pancia con il nostro chef per mangiare bene e soprattutto bene. Abbiamo degli ospiti come sei tu, che è un ospite fisso, che ci delizia soprattutto con la poesia, dove come ti avevo detto prima, come avevo letto prima, praticamente una poesia serve soprattutto a conoscerci dentro. Ma una domanda che ti volevo porre è questa: ma per te la poesia è un hobby o una passione? Ah, guarda, Francesco, tu le tiri sempre fuori dal sacco, mi metti sempre la poesia un hobby o una passione. Beh, partiamo dalla seconda passione, certo è una grande passione, ci mancherebbe altro, e senza la passione come se non si può fare niente di buono, ma non soltanto di buono, non si può stare lì, l'arte richiede, la poesia come l'arte in genere, richiede attenzione, amore, e tanti altri aspetti, cultura, sconfronto, abnegazione, insomma più che ne ha più ne metta. Per quanto riguarda la passione ci deve essere, sì, viscerale. Vabbè, uno che in ogni cosa la passione ci deve essere. Se uno che suona non può suonare senza la passione, come si fa? Ti esibisci, suoni una chitarra, canti senza la passione, ma la gente se ne accorge. Se questo è un paragone che calzi in questo caso. Cioè la gente che tu canti in maniera fredda, magari può essere... Non trasmettere proprio le tue sensazioni, perché comunque, ricordiamo che comunque i cantanti, soprattutto chi scrivono i propri chi scrive il proprio testo, è un poeta alla fine. Sicuramente, perché avverte, sente, ha macerato quelle emozioni, quelle sensazioni che l'hanno indotto e portato a scrivere. Perché secondo me è difficile poter scrivere anche un testo di canzoni se tu non avverti qualcosa, se non lo senti. Tranne che il mestierante si mette lì a scrivere, insomma sappiamo bene o male che... Però questo, ecco, poi ricade sull'arte, su quella l'arte con la maiuscola intendo io. Perché diciamo che poi il fruitore se ne rende conto. Questo è. Per quanto concerne la seconda la prima tua domanda, l'hobby. Lobby della passione, della poesia. Guarda, lobby è qualcosa, credo io, che è una cosa nobilissima, attenzione, quindi non voglio fare differenziazione di stima o di simpatia per l'uno, per l'altro, per la lobby o per la passione, eccetera. Ma lobby chiaramente si serve soprattutto a passare del tempo bene, anche costruttivo, perché che so, uno che fa cruciverba passa del tempo piacevolmente, impara, mette in moto le rotelle, migliora la sua memoria e quindi tante cose. Chi raccoglie francobolli chiaramente è un hobby che nobilita, anche perché poi la filatelia ti mette a contatto con tante realtà storiche, attuali e del passato. La numismatica è assolutamente così, non so, altri hobby minori, non so, all'intaglio del legno, che già ti potrebbe diventare anche arte quella, ma tante cose del genere, hobby. La poesia non può essere hobby, soltanto hobby. cioè io non lo faccio, io non mi posso sedere per scrivere per passare del tempo, cioè sarebbe una mostruosità, io il tempo me lo vado a passare fuori, con gli amici, vado al bar, in discoteca, al cinema, al mare come ho fatto stamattina, vado a bella vedere. Quello sì, è un hobby, è un piacere per stimolare l'organismo, per camminare. Ho capito. Ma volevo chiederti una cosa, Michele, scusa se ti interrompo. Sì, le poesie vengono a gettito, cioè nel senso quando si vivono delle emozioni forti, positive o negative, o quando la vita scorre tranquilla, la vena poetica è un po' più in letargo? Ma tu credi che la vita scorra tranquilla, possa scorrere mai tranquilla? E nel momento in cui nel poeta scorre tranquilla, perché magari come me in pensione o tante cose vanno bene, ma in lui, nel suo animo, c'è una catasta di quella legna fradicia di emozioni, o di quella legna ancora che vuole ardere di emozioni e di cose propositive che ancora gli accendono l'animo, gli danno l'input per scrivere, perché poi non è che il fatto che io mi sieda o il poeta si sieda, ora voglio fare una poesia su Palermo, ora voglio fare una poesia sulla mia amica o per la mia amica, assolutamente no. L'input, ecco, la poesia può venire anche in un momento X della tua giornata, mentre riposi, mentre mangi, mentre sei a passeggio, okay. Ma ti può venire anche una sola parola, attenzione, ma quello è l'input, l'inizio, per poi tu che hai macerato delle sensazioni, delle emozioni, anche a distanza di tempo, ecco, le tiri fuori e ti rendi conto, dici, ma io queste cose le avevo conservate in quale cassetto della mia memoria ancestrale, della mia memoria artistica, se così vogliamo. Ma è chiaro che poi per diventare poesia ci vuole un po', ci vuole quantomeno un po', bisogna conoscere un po' la tecnica, certe cose. Quindi la poesia possiamo definirla in maniera molto semplice che è un atto creativo. Sicuramente, certo, tutta l'arte è un fatto di creatività. Ma comunque non c'è niente sotto il sole, ma tutto deve essere nuovo, perché il linguaggio deve essere nuovo dell'arte. Beh, indubbiamente. Sai cosa diceva per esempio Benedetto Croce a chi gli chiedeva che cos'è l'arte? Dice, l'arte è tutto ciò che tutti sanno che cosa sia, tutti lo sanno, ma in effetti non è un paradosso chiaramente che lui ha voluto così lasciarci, ma non è così, perché le opere come dei pozzi artesiani salgono tanto più alto quanto più a fondo la sofferenza ha scavato il cuore. E questo ce lo lascia scritto il signor Proust. Quindi quando tu vai a fondo nella sofferenza, diciamo sofferenza tra virgolette, non voglio, anche nella gioia per carità, negli affetti più belli, quanto tu più riesci a scavare dentro, in questo humus, tanto più riesci a prendere, ad avere dall'arte, dalla poesia. Ma questo in tutti i campi, nella musica, nella pittura. Un pittore come può mettersi davanti a una tela bianca già cosa dovrà dipingere? È un assurdo. Cioè non lo farebbe se sapesse già a priori. Eppure mi ha fatto venire un'idea. Io ho un carissimo amico che vive adesso in Germania e che come lavoro fa adesso il pittore. Pensa un po'. Però perché aveva questa passione e adesso l'ha trasformata da una passione vera e propria a un lavoro a tutti gli effetti. Contattiamolo, cioè. Facciamoci dire anche da lui come disse Dante. Vedrò di contattarlo perché è una persona che conosco veramente. Poesia è qualcosa che ditta dentro, ce l'abbiamo dentro, questo è il sacro fuoco che ci arde purtroppo, certo. Ma purtroppo dico tra virgolette perché è una cosa talmente al di là della persona, che a volte ci trascende sicuramente, quando veramente avvertiamo questo sacro fuoco che ci sconvolge anche la giornata, anche l'attimo. Io non passo giorno senza che possa pensare a questa mia amante, non posso dimenticarla, non si lascia dimenticare. E io guarda gioisco a questo fatto, perché io temo il momento in cui, purtroppo per tanti motivi, l'età e l'Alzheimer e compagnie varie, sarò costretto purtroppo, se sarò, per carità, non faccio previsioni catastrofiche, potrei anche. E questo mi un pochettino mi angoscia, pensarci se ci penso prima, ma non ci penso. No. Allora, possiamo ascoltare questa poesia quest'oggi? Guarda, io sono sempre felice di leggere delle poesie. Ho sempre paura di tediare, perché sai, la lettura della poesia così a distanza, insomma, può anche tediare. L'altra volta, se ricordo bene, abbiamo parlato di bambini. Sì, ricordi benissimo. Mi dicevi che portavi i bambini dove? Al cinema? Io ho portato i bambini la settimana scorsa a vedere le avventure di Tintin, che è veramente una cosa carinissima, perché inizia questo pupazzo animato, perché non è più un cartone animato, inizia con Tintin che si fa fare un ritratto da un pittore di strada, sì, dove praticamente lui ritrae com'era lui tanti anni fa, quando veniva trasmesso per l'appunto i cartoni animati di Tintin in Mamma Rai, quindi parliamo di 30 anni fa circa, certo, e da lì prende spunto tutta la serie di avventure di Tintin. È carino, molto ma bello. Non è tanto, io quello che dissi l'altro giorno, non è tanto l'aspetto di portare i bambini al cinema e vedere i bambini che insieme a te si divertono, che è una cosa importantissima. Guarda, è già un'immagine poetica, vedi la poesia, vedi da cosa nasce, dall'osservazione, dal piacere di stare insieme con gli altri, di osservare lo sguardo di un bambino, di vedere la loro gioia, di dare a loro della gioia soprattutto. Invece, come ti dicevo, io sono felice comunque di questo tuo atteggiamento, perché in questa immagine del padre, del nonno, col nipotino e nipotini che vanno alla villa, già al cinema, c'è una cosa così poetica che io in una mia prefazione, un libro del mio amico Lino Balletti, ho descritto che dopo, diciamo, la pietà, la maternità, le varie maternità che abbiamo nella storia dell'arte, cioè io metto l'immagine, come immagine parlo, metto l'immagine del nonno col nipotino. È una cosa struggente, bellissima. Poi soprattutto, come nel caso del mio amico purtroppo che non sta molto bene, quando è il nipotino a sostenere il nonno. Pensa un pochettino tu, che lo fa camminare, deambulare a casa, quei passi lenti, e gli dà la manina e gli dice: dai nonno, piano, non ti preoccupare, ci sono io. È una cosa bellissima. Ho preso spunto per fare questa prefazione al suo libro dedicato alla nipotina Giro Giro Tondo. Ok, allora partiamo con questa poesia dedicata. Questa lo dedichiamo a un'altra categoria di persone, guarda. Alle persone anziane, mi sembra di aver capito. Sì, vecchi. Questa è una poesia diventata intitolata I vecchi, i vecchi. E questa categoria di persone alle quali purtroppo mi avvicino anch'io. Ma tutti, se vogliamo campare, come diciamo qua in Sicilia, se vogliamo campare, vecchi ci dobbiamo fare. È bellissimo, è certo, vediamo se vecchio, magari ci arriverci tu. Questa categoria di persone, diciamo un po', continuo un po'. Non per essere pietisti, così un po' abbandonati, dimenticati, lasciati dentro un cantuccio, con le nostre collegare badanti, purtroppo che c'è tanto bisogno, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però ecco, suscitano sempre quella commozione da parte di chi sta bene, se ancora bene, e quindi l'ho voluto ricordare in questa maniera, ho voluto parlare di loro in questa poesia, che fa parte di una delle mie ultime pubblicazioni, che ha vinto il premio Martoglio a Grotte, intitolato Ogni giorno la vita. Questa invece si intitola I vecchi. Allora, Michele, dopo la poesia noi ci risentiremo la prossima settimana. Ti sempre auguro con un tanto film. Piacere, sperando che tu e l'ascoltatore non ti buttino fuori dalla radio. No, assolutamente. Io credo che anzi faccia piacere sentire delle belle parole come sono quelle tue. Sono felice di questo. Ti auguro un buon fine settimana. Grazie anche a tutti voi. E buona vita. Grazie, grazie, grazie. Le vecchie. Le vecchie sono angeli di vetro, appunteggiate in una certa d'anni. E quando parlano, parisse che scaleassero la picciottanza spiegata tra le spine. Hanno lo cuore come cuccia d'acqua appernecata in una foglia sicca. Acedo zoppo, pronto per satare dall'ultima restuccia della vita. E specchi in la neghia hanno gli occhi che aspettano in silenzio una tuzzata, stanche, russe, finesse a vaneduzza, rivotano lo tempo che non passa. Ah, le vecchie, le vecchie, quanto spinno de sole hanno ste vecchie. In tala chiazza, alive sradicate, ne parlano sordate che tornano ferute della guerra, una guerra di formiche ammaessate che spruppano miseria allo destino. Ah, le vecchie, quanto carezze volessero ste vecchie. Assomigliano a frassine intaccate già l'ingaglio di un feudo scordato, e quando te taliano è come se priassero sotto la croce d'un cielo che ci sgrigia. E quando

so se conoscete o quantomeno vi viene in mente di chi sia realmente Gabriele Paolini. Insomma, per intenderci, è chi fa quelle apparizioni dietro i vari giornalisti che hanno le dirette con le testate giornalistiche. E praticamente considerate il fatto che lui ha circa 30.000 momenti in cui è comparso dietro il giornalista, quindi il classico disturbatore. Però questa volta non è andata proprio benissimo. Tempo fa era stato preso a calci da Paolo Fraiese e questa volta invece gli è finita ancora peggio, perché Fabrizio Summonte, che era collegato con il TG5 in diretta proprio dal Palazzo Chigi, per la prima volta è andato bene perché si è interrotto il collegamento, per la seconda volta si è ristretta il campo di ripresa della diretta, la terza volta non ne ha potuto più il nostro Fabrizio Summonte e gli ha dato una bella testa. Stare con una francese che mi bacia alla francese, o magari con una spagnola che mi bacia alla spagnola. Cos'è un bacio alla spagnola? Cosa fai? Lo domandi a un uomo. Valla a chiedere alla tua fidanzata, la tua relazione è avanzata. Voglio una ragazza incazzata, anzi no, la voglio tranquilla. Voglio mettere su famiglia come nello spot della Barilla. Di recente contemplo raramente, vorrei farmi due ragazze contemporaneamente. Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, le top model con due bombe. Le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde. Mi piacciono le donne. Amo le donne di ogni colore, razza, lingua e classe sociale. Non mi piacciono quelle snob, sto mentendo, mi piacciono uguale. Vorrei uscire con una marocchina, algerina, tunisina, slovena, egiziana, rumena, americana, portoricana, una marziana. In vacanza con una romana a Londra, eri castana e ritorni bionda. Dimmi che c'è una sorella gemella che seminuda balla alla Lorella. Andiamo a cena fuori all'aperto e poi scappiamo appena il conto chiama, il cameriere ci vede e urla. Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, le top model con due bombe. Le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde. Mi piacciono le donne. Canto le donne, lo sai, ma ci sono donne che non vorrei mai, neanche se fossimo a Santo Domingo. Domandi sei serio, non sai quanto, non uscirei mai con l'ori del santo. Donne di quello stampo, fredde, congelate come uno scampo, e se ti innamori non hai scampo. E qualche volta fai dei sogni strani, quei calendari con ragazze in bikini. Al posto della solita modella che si sdraia, sogno le foto sexy della tabaccaia, della benzinaia, della giornalaia, della fornaia. Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, le top model con due bombe. Le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde. Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, le top model con due bombe. Le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde. Mi piacciono le donne. Canzone per tormentarti ancora un po'.

e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Ogni notte proprio come le zanzare e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi quasi si somigliano, non ho più paura dello specchio che vedevano, eri dolce mentre mi baciavi ieri sera, io ti tengo stretto forte, lo farò una vita intera. Pippa Middleton diventa scrittrice, la bella inglese, quindi è famosa per il matrimonio della sorella Kate con il principe William, diventa adesso scrittrice. Ora ne parliamo, Come stavamo dicendo, Pippa Middleton, resa famosa per il matrimonio della sorella col principe Williams, scrive un libro sulla perfetta padrona di casa. Ecco come si organizza una festa, quindi nei minimi particolari e tutto il resto. Ma sicuramente questo è importante, sì, però dobbiamo essere sinceri. Ma bisognava scrivere un libro per avere la perfetta padrona di casa? Boh. Continuiamo con la musica, prima consigli commerciali e poi rientreremo in studio veramente con una canzone che ha segnato un pezzo. Slalom. Flashback. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom, flashback. The last that ever

due giuntra notizie curiose, idee e tanta musica. Quello che comunemente noi chiamiamo amore, forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tutti hanno sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto, anche perché guardo fuori, fuori non ce n'è. Però lui non c'è. Universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitudine. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio che siete su CRM Happy Radio, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24. Questa è Slalom, una trasmissione che vi sta portando fino alle ore 13, ahimè che dopo ci saluteremo. Come già anticipatovi questa mattina, abbiamo anche oggi con grande piacere ospite il nostro Alessandro Orefice, che ci darà e ci delizierà con una sua ricetta. Ciao Alessandro, come stai? Buongiorno a tutti, va tutto benissimo, oggi siamo lievemente in ritardo perché oggi, ohimè, è il mio giorno di riposo, quindi non mi trovo all'interno delle cucine dell'antica focacceria San Francesco, ma da libero cittadino a fare due passi per le vie della nostra bellissima città di Palermo. E beh, oggi fra le altre cose è una bella giornata, ci fa d'altra anche un po' di caldo. Molto piacevole, sì. Molto calda, infatti prima un bel giretto in motorino e adesso... subito pronto per i nostri carissimi amici ascoltatori. Perfetto, allora cosa ci farai assaggiare, cosa ci preparerai? Oggi devo dire la verità, un pretesto per preparare un antipasto molto rapido e veloce che comunque si può tranquillamente preparare in casa, e abbiamo due opzioni: o su una padella antiaderente o farla sul fornetto a microonde. La prima secondo me è quella migliore. In pratica andiamo a preparare oggi il caciocavallo all'argentiera, uno di quei sapori che poi alla fine nel tempo stanno quasi per perdersi, con tutte queste mozzarelline pronte e fritte da mettere in friggitrice, tutti questi formaggetti già precedentemente panati dalle case produttrici. Ritorniamo un attimino indietro e andiamo a preparare delle cose che ancora ricordano la nostra popolare cucina, che secondo me è quella più ambita. Buono, dai. E allora andiamo a tagliare un trancio di caciocavallo fresco. All'incirca come pezzatura per ogni porzione dobbiamo calcolare da 120 a 140 grammi. Tagliamo lo spesso, deve essere non inferiore al centimetro e mezzo di spessore, e mettiamo in una padella antiaderente che abbiamo precedentemente messo sul fuoco solamente una bella manciata di zucchero. Quando questo comincerà a caramellare andiamo a porre subito sopra il caciocavallo, lo facciamo colorare da tutti e due i lati e poi lo bagniamo con mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Non appena questo sarà sfumato per bene andremo ad aggiungere dell'origano, del pepe e assolutissimamente niente sale. Dico niente sale perché già il caciocavallo di suo è molto saporito. Non appena abbiamo fatto ridurre, perché questo è il termine idoneo, ridurre il liquido che noi abbiamo messo, quindi l'aceto che comunque andrà a formare un sughetto tra il liquido che perde il caciocavallo stesso e il sughetto che andrà a produrre l'aceto che abbiamo utilizzato per bagnare, lo andiamo a servire in un piatto con un letto di rucola molto molto abbondante. Non appena andiamo a mettere sopra il nostro caciocavallo, metteremo un po' del suo sughetto sopra, un'altra volta andiamo a cospargere di origano, questa volta fresco, e una bella guarnizione di qualche scorzettina d'arancia sopra è molto bella e profumata, e va a sposare sicuramente bene un pochettino tutto il bouquet aromatico che abbiamo utilizzato prima. Ho capito, Alessandro, ci hai deliziato anche per oggi per una ricetta che è molto, diciamo, tra virgolette semplice, però nel frattempo, come hai detto tu anticipando, ci fa ricordare un po' i vecchi sapori di una volta. Le tradizioni, i sapori e i gusti delle nostre vecchie tradizioni. Bene, qua. Ok, Alessandro, io ti ringrazio e ti auguro una buona continuazione di giornata, buona grazie. Vita e noi ci sentiremo sempre lunedì, sempre più o meno a questo orario. Grazie mille, grazie. Ciao, buona continuazione. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Ciao Alessandro, in bocca al lupo, grazie, ciao. Slalom, flashback. Senza lei il tempo sembra strisciare passando più lento del solito. Senza lei chiamare un'altra mi sembra davvero qualcosa di stupido. Che vita inutile senza lei. Vivo fumando e poi mangio bocconi di piccole lacrime. Sono diventato, pensandoci bene, anche un povero diavolo. E se mi guardo allo specchio mi sembro più vecchio in un attimo. Chissà se impazzirò, si può pure andar giù dal balcone, dare un calcio più forte al portone, ma non senti lo stesso dolore, quel sapore di morte nel cuore se tu non ci sei. Dove sei? Maledettissimo pezzo di stella cadendo, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano. Se fossi stata un miraggio la bolla d'amore scoppiava in un attimo e poi senza te mi regalavo nei letti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere di cinico. L'indifferenza è il vestito che metto ogni sera di solito. Ho quasi voglia di spegnere l'ultima fiamma dell'anima, ma poi si arrabbia Dio. La mia febbre continua a salire, quanto male che sento nel cuore, ma ho paura, non voglio morire, sono solo un vigliacco d'amore che vive di te. Dove sei? Maledettissimo pezzo di stella cadendo, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano. Scoppiava in un attimo e poi, senza te, mi regalavo nei letti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere. Dove sei? Le zucche che in questo periodo si sono visti in occasione della festa di Halloween è sicuramente una zucca importante perché è dolce, coloratissima e trova in cucina una svariata quantità di applicazione. Si può fare in un modo, in un altro modo e così via. Però se voi adulterate la zucca, non buttate via i semi. Sono una fonte naturale di proteine, ferro e zinco. Racchiudono anch'essi le stesse proprietà della polpa, sono quindi utili per la protezione dell'apparato urinario. Indicate sia per prevenire la cistite femminile che per i problemi legati alla prostata. Quindi cosa fate? Quando prendete una zucca rossa, lavate i semi e fateli cuocere in acqua o anche in latte per circa 30 minuti. Si ottiene un decotto dal buon sapore simile all'orzata, prezioso come diuretico e per lenire le infiammazioni alla vescica. Continuiamo a parlare, ma prima continuiamo prima ad ascoltare un po' di consigli commerciali, poi rientreremo in studio e partiremo con i Cockerom, una canzone che risale a qualche anno. Slalom. Flashback. Vi ricordo che siete su CRM Happy Radio e questa è Slalom, la trasmissione che vi darà compagnia fino alle ore 13. Ripartiamo con la musica e come già detto lo facciamo con Cockrom e il titolo del pezzo è The Promise You Make. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Would you carry me with you? Abbiamo parlato del basilico che aiuta la gola, abbiamo parlato anche dei semi di zucca in decotto per aiutare la diuresi e adesso parliamo della mela, che è un frutto che sicuramente in casa l'abbiamo un po' tutti, è un frutto apprezzato sia dai più grandi che dai più piccolini. Adesso invece parliamo di bellezza, cioè l'applicazione che possiamo fare anche con la mela è anche un angolo dedicato alla bellezza, quindi per voi donne che siete all'ascolto potrebbe essere qualcosa di importante. Provate questa maschera per il viso che aiuta soprattutto a levigare e a donare elasticità alla pelle. Occorre una mela, due cucchiaini di panna fresca, un cucchiaino di miele. Frullate gli ingredienti, applicate il composto sul viso perfettamente pulito e lasciate agire per 15 minuti. Scoprirete praticamente, sciacquerete poi con acqua tiepida. Vedrete un pochettino la bellezza che avrà assunto il vostro viso. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Beh, speriamo che non vi porti del danno, ma io credo di no, perché comunque queste informazioni le prendiamo da riviste specializzate. Musica ancora italiana, richiesta da Antonella. La cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa, ed è un miracolo che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che è stato difficile abituarsi ad una vita sola e senza di te. Spesso sai, pieno di pensieri, non sono più sereno come ero ieri. La vita semplice che mi garantivi, adesso è mia però, è la stricata di la propria. Più semplice sarebbe quella di non essere mai nato. In fondo la vita è solo una scusa, è lei da sola che ogni giorno si rinnova. Ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Ti faccio presente che ho quasi finito anche la pazienza che ho con me. Sarà difficile non fare degli errori senza l'aiuto di potenze superiori. Un fatto sai, con le mie emozioni, le lascio vivere e loro non mi fanno fuori. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. le lascio vivere e loro non mi fanno fuori. Il giornale satirico francese Charles Net è stato attaccato dopo l'annuncio della pubblicazione di uno speciale dedicato proprio alle elezioni in Tunisia, speciale che è uscito il mercoledì 2 novembre e una molotov ha completamente distrutto la sede del giornale, che già non è prima queste cose, perché infatti nel 2007 era già stato colpito. Ancora musica di casa nostra. Non chiamo mai. Cerco solo quando poi ho voglia di assaggiarti e di confonderti. Me l'hai insegnato tu, che quando scappi e sei distante ti cercano sempre. Il gioco lo comandi tu, ti chiamo stupida, ti prendo pure l'anima e non sai mai. Quando ritorno, forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che, se ci penso, è quello che ti piace di me. Spogliati, senza dolcezza e senza regole, e poi giurami che tu sei pazza di me. Chiedevo amore tu, amore non mi hai dato mai, e ora scompaio sempre consapevole che quando poi ritorno ti ritroverò sempre contenta e bella come solo tu lo sai. Ti spoglierai senza parlare neanche un attimo. Mentre dormi, forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che, se ci penso, è quello che ti piace di me. Spogliati, senza dolcezza e senza regole, e poi giurami che tu sei pazza di me. Ogni giorno in Italia un imprenditore rischia di rimanere senza mutande, questo è lo slogan che accompagna la provocatoria fotografia che è inserita all'interno del Corriere della Sera della sera. E infatti Enrico Frare ha spiegato: per chi come me cerca di portare avanti il Made in Italy italiana, la situazione non è più sostenibile. C'è chi mi chiede perché non delocalizzare, ma io voglio investire qui. L'altro giorno si era parlato anche di Diego Della Valle, che era comparso su alcuni quotidiani nazionali proprio quasi nudo, proprio per protestare in questo periodo di grande crisi economica. Il governo, questo nuovo imprenditore Enrico Frare, nuovo per intenderci, nuovo per questa pubblicità, se l'è presa anche con le banche, dicendo che anche loro hanno partecipato molto a questa crisi. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. Chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. che si trucca in macchina. E benvenuto sia questo lungo inverno, semmai ci aiuta a crescere. Con Laura Pausini il nostro programma si conclude anche per oggi. Vi ringrazio della cortese attenzione che avete dimostrato alla trasmissione Slalom. Il nostro appuntamento è per mercoledì mattina, stesso orario, stessa frequenza, se il buon Dio giustamente lo vorrà. Io vi auguro buona vita e buon proseguo dei programmi di CRM e Pirani. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Rock Revolution con i Rock Brothers. Simone.